Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gabriele Di Luca per parlare del suo film Thanks al cinema da giovedì 3 ottobre 2019. Gabriele, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie. Ce lo presenti? È un bel film Thanks, tratto naturalmente dall'opera teatrale Thanks a Vaselina, che è stato un grande successo in teatro. Nel 2017 abbiamo girato questo film, che purtroppo si chiama Thanks e non Thanks a Vaselina per diversi motivi. Quindi quelli che sono anche compromessi che si devono fare al cinema per far uscire il proprio film, però è stata una grande avventura in fondo, con un magnifico cast, tra cui Luca Zingaretti, Antonio Folletto e molti degli attori dello spettacolo teatrale, con un produttore, Luca Barbaretti, che comunque ringrazio per avermi permesso di aver fatto questo film. Siamo felici, siamo molto contenti di questo progetto. L'altra sera, il 30, l'anteprima a Roma, è andato molto molto bene. Come era nato il progetto? Da un'idea di Maurizio Porro, critico del Corriere della Sera, che vedendoci a Teatro a Milano nel 2014 scrisse l'articolo La vaselina che il cinema dovrebbe assolutamente copiare, intuendo nei miei testi, nel mio modo di scrivere, qualcosa di profondamente cinematografico e teatrale al tempo stesso, di personaggi che potevano essere presi dal teatro e portati al grande schermo. E da lì, insomma, in qualche modo ci ha dato il via per iniziare a incontrare produttori per proporre questo progetto, che finalmente, dopo molto tempo, molta fatica, molti incontri, nel 2017 si è concretizzato. Facendo un passo indietro, raccontiamo anche la genesi di questo spettacolo. Lo spettacolo è nato l'anno prima, nel 2013, è nato insieme a Pontedera Teatro, l'abbiamo provato lì in Toscana. Venivamo già da 5 spettacoli che erano andati molto bene, stavo cercando qualcosa che ancora di più potesse far emergere la mia scrittura, il mio linguaggio, quello che sentivo sia nei confronti della vita, ma nei confronti anche dello stile teatrale che stavo cercando. E così, come un piccolo miracolo, nacque Thanks, che all'inizio pensa anche tra gli addetti ai lavori nel teatro, tra gli operatori, i critici, non fu un grande successo, ci furono molti detrattori, perché la gente è sempre un po' spaventata dalle novità, e quindi fu il pubblico in qualche modo a decretarne il successo anno dopo anno, fino a farlo diventare un vero e proprio cult. E la cosa interessante è che molte di quelle persone che all'inizio ne parlavano male, ora ne parlano molto bene. Quindi è sempre in qualche modo un percorso, no, che mi piace vedere nelle cose, che poi ti porta anche da un'altra parte, da quello che si pensava, che tutti si pensavano, credevano. Ecco, io spero che questo succederà anche al cinema. Per chi ci ascolta, diamo anche qualche indicazione di trama rispetto alla storia? Certo, volentieri. La storia è molto semplice, anche se grottesca. Sono due ragazzi, due 35enni senza futuro, che decidono di esportare dei preziosissimi semi di marijuana che selezionano e coltivano da anni in Costa Rica, perché vogliono aprire un coffee shop in mezzo alla giungla, un coffee shop che nessuno ha mai aperto prima, è proprio un progetto originale per poter fare fumare la loro erba, che secondo loro è l'erba migliore del mondo, ai turisti. Provano a esportare questi semi attraverso un cagnolino, introducendo gli ovuli nel cagnolino, ma il progetto fallisce miseramente perché il cagnolino viene fermato dai metal detector dall'aeroporto, ed ecco che invece a un certo punto incontrano la loro vita banda, una ragazza insicura e obesa che diventerà un inaspettato corriere della droga. Nel frattempo dovranno avere a che fare con la madre di uno dei due protagonisti, Phil, una donna molto dura, molto gretta, ludopatica, che cerca di riconquistare l'affetto del figlio perduto, e col padre di Phil, un grandissimo Luca Zingaretti, veramente un immenso Luca Zingaretti, che interpreta una transessuale, il padre di Phil, che ritorna dopo 15 anni a casa transessuale. Gabriele, raccontiamo anche un po' brevemente l'esperienza della compagnia. Guarda, la compagnia nasce nel 2009, quest'anno, l'anno scorso, insomma, a cavallo di questi due anni stiamo festeggiando i 10 anni della compagnia, abbiamo realizzato 9 spettacoli, tutti andati molto bene, siamo sicuramente conosciuti, siamo esplosi con gli ultimi 3, tant'è vero che questi ultimi tre testi vengono rappresentati adesso in Spagna, c'è anche i diritti in Germania, stiamo lavorando sulla Francia, andremo al Festival di Arte Almada quest'estate in Portogallo, i tre testi sono stati pubblicati, insomma il percorso della compagnia è un percorso che si è articolato, che si è sviluppato soprattutto grazie al pubblico. Ricordo che i primi anni che andavamo a Milano avevamo 30 persone in sala, adesso abbiamo le liste d'attesa in teatro da 500 posti. Questo è stato un percorso meraviglioso insieme a tutti i miei compagni di viaggio di Carrozzeria Orfeo, è stata veramente una famiglia teatrale, lavorato avanti un progetto credendoci nonostante le molte avversità del sistema che abbiamo incontrato e oggi in qualche modo questo ci ripaga. Ecco. In quante sale? Ora stiamo prevedendo il film in questa prima battuta in 10-15 sale. La vita di un film ho capito che è una vita strana perché potrebbe essere replicato in molte altre sale, ce lo potrebbero chiedere, a un certo punto potrebbe subentrare una distribuzione più forte che decide di portarlo in più sale. Insomma, allora è così, il film dal 4 ottobre in poi uscirà in una quindicina di sale, diciamo, e pian piano si svilupperà. Vedo ora l'elenco delle sale e in un paio di sale dal 3, quindi la corretta uscita è da giovedì 3. Sì, in realtà la corretta uscita è da giovedì 3 perché c'è la prima uscita al Cinema Aquila a Roma. Ora, da quelle che noi abbiamo pubblicato, che sono 7-8, ne aggiungeranno presto altre. Bene. Questione di giorni. Thanks al cinema da giovedì 3 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Gabriele Di Luca della compagnia Carrozzeria Orfeo. Gabriele, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Ciao, ciao. Con Jay Weisberg, direttore artistico della 38esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2019. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Lo descriviamo a chi non lo conoscesse? Certo, le Giornate del Cinema Muto è il festival più importante per la storia del cinema nel periodo muto, quindi ogni anno per una settimana abbiamo le proiezioni dalle 9 della mattina fino al mezzanotte, sempre con la musica dal vivo, quindi diciamo non solo pianoforte, anche trio per esempio, anche abbiamo tre spettacoli orchestrali quest'anno con l'Orchestra di San Marco di Pordenone, quindi è un modo di scoprire la storia del cinema ma anche di avere dei divertimenti. E quante saranno le opere di questa edizione? Quest'anno abbiamo 217 titoli, incluso ovviamente i cortometraggi, in qualche caso cortometraggi di meno di un minuto, però quest'anno siamo veramente pieno. Quali sono i lavori più antichi? Abbiamo il film del 1996, quindi veramente i primi immagini del cinema, e poi fino al 1932, perché per esempio in qualche paese tipo Cina il muto era più lungo che qui in Italia o negli Stati Uniti. Come saranno le giornate? Come si svolgono? È un festival così facile per tutto il pubblico, non solo quelli accreditati, perché ovviamente abbiamo tantissime persone stranieri da tutte le parti del mondo, ma anche nel Teatro Verdi c'è un box office, c'è la possibilità sempre di comprare i biglietti, tranne e la prima serata è la serata di chiusura. La prima serata è Il Monello, The Kid di Chaplin, e la chiusura è The Lodger. E se non mi sbaglio siamo quasi pieno, ma forse c'è ancora qualche biglietti. Le proiezioni saranno in pellicola e in digitale? Sì, ogni anno proviamo di avere più pellicole quando è possibile, 35 mm, ma adesso in questo momento nella storia del cinema, quando quasi tutti i restauri sono fatti digitali, è più difficile di proiettare solo sul 35, è quasi impossibile. Ecco, come funziona, come sta andando il restauro a livello globale nel mondo? C'è sempre un problema di soldi, perché c'è tantissimi titoli e tantissimi titoli importanti che sono in un stato pericoloso negli archivi, ovviamente con nitrate e una pellicola molto fragile, e c'è sempre problemi, ma anche perché c'è sempre scoperte, c'è sempre ogni anno, per esempio, sento un'altra storia di una scoperta di, non so, 100, anche 200, anche 1000 rulli in una collezione privata, e questi c'è un lungo lavoro di controllare e poi di restaurare se possibile, ma come ho detto non c'è soldi, non c'è molto soldi, e soprattutto per esempio quando c'è un film francese in un archivio qui in Italia è anche più difficile di guadagnare i soldi, perché di solito gli archivi sono collegati al governo o almeno di un senso di nazionalità, quindi è più facile per un restauro di un film italiano qui in Italia che un film francese, però allo stesso momento voglio dire che per esempio quest'anno la Cineteca Nazionale qui a Roma ha fatto un bellissimo lavoro per un film americano, The Moment Before, con un regista, Robert Vignola, che era nato qui in Italia. Quindi succede, assolutamente succede, ma c'è sempre un problema di soldi. La qualità del restauro com'è? Questa è una domanda difficile. Di solito molto bene, ad un livello molto alto, e dipende sempre dal laboratorio. I titoli restaurati poi hanno un tipo di circuitazione, una visibilità per il grande pubblico? È difficile, perché secondo me tanti altri festival, i festival tipo Venezia, Cannes, Berlino, anche più piccoli, loro non hanno l'idea di proiettare anche nelle stazioni classici il cinema muto, forse perché è un po' costoso, perché c'è sempre la bisogno di musica dal vivo, ma anche secondo me non è comprensibile che loro non hanno la fiducia nel pubblico che è possibile, e più che possibile, di attirare il pubblico al cinema muto quando c'è la musica giusta e il film giusto, quando c'è un restauro bello con la musica giusta, è una cosa che va oltre l'idea del muto, è solo una questione del cinema. Come ha accolto a Pordenone il festival, visto che ha una lunga tradizione? Ero molto soddisfatto qualche anno fa quando ho fatto una riunione con il sindaco di Pordenone, perché lui mi ha detto che loro so che grazie al festival il nome di Pordenone è noto nel mondo. Ovviamente c'è anche l'artista rinascimentale, il Pordenone, anche lui ha dato un certo fame alla città, e quindi mi piace tantissimo l'idea di questo pittore del Cinquecento, e noi, un festival di cinema muto, abbiamo messo la città in un luogo importante, globale. In chiusura, ci lasci i riferimenti internet per la programmazione? Assolutamente, www.giornatedelcinemamuto.org. 38esima edizione a Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, buona giornata. Con Maria Luisa Celani, direttrice artistica della quinta edizione dello Slow Film Fest, in tre tappe dal 6 al 27 ottobre 2019. Ben trovata. Grazie, ben trovati a tutti. Presentiamo intanto l'oggetto Slow Film Fest, cos'è? Sì, lo Slow Film Fest è un festival che prende spunto da una realtà che è quella delle Città Slow International, un'aggregazione di comuni in tutto il mondo che hanno circa 200 comuni, che hanno come obiettivo quello di salvaguardare alcuni temi come l'ambiente, l'identità, la diversità. Quindi partendo da questi aspetti noi abbiamo costruito intorno a questo

dal 6 al 27 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Maria Luisa Celani. Un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie. E a presto. Grazie, grazie, ciao Federico, e grazie a tutti. Partecipate, vi aspettiamo. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per parlare del film Psicomagia, un'arte per guarire di Alejandro Jodorowsky al cinema da martedì 8 ottobre 2019. Francesco, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Presentaci questo lavoro. Certo, allora, penso che il regista non abbia bisogno di grosse parole. Diciamo che il film esce martedì 8 ottobre come evento in tutta Italia, quindi al momento abbiamo circa una trentina di sale che poi aumenteranno a poco, e racconta l'arte della psicomagia, quindi un'arte che viene utilizzata dal maestro per guarire e attraverso testimonianze reali spiega cos'è la psicomagia, quali sono i suoi pregi e come viene praticata nei vari pazienti. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Beh, devo dire che ho apprezzato l'arte di Jodorowsky, che come sappiamo è un regista molto particolare che tende a raccontare e spiegare l'arte in tutte le sue sfaccettature. In questo lavoro in particolare abbiamo ritenuto interessante le varie metodologie per curare, per infondere ottimismo nelle persone, quindi è ciò che abbiamo apprezzato in questo lavoro. Da quello che ho potuto vedere è un via libera all'inconscio per quanto riguarda l'espressività di ognuno, lasciare esprimere l'inconscio che non ha gli stessi strumenti e le stesse modalità della razionalità e quindi è necessaria una particolare attenzione. Assolutamente, infatti secondo il maestro molti dei nostri problemi derivano dalle barriere che il nostro io tende a crearsi, dalla nostra famiglia eppure anche da alcuni fattori che ci influenzano di giorno in giorno, e tutti questi fattori ci impediscono di trovare il proprio io, quindi la psicomagia, l'arte per il maestro, è qualcosa che ci libera e da queste catene ci permette di vivere appieno la nostra vita, tant'è che vorrei ricordare che nel film ad esempio compare una delle sequenze più famose di Poesia senza fine, che era la sua opera precedente, sempre portata da noi al cinema, in cui lui esprime con foga, quasi con rabbia, anche il desiderio di continuare a vivere, ma vivere spendendo bene il nostro tempo, le nostre ore, i nostri giorni. Oh, Francesco, Jodorowsky continua a produrre e a realizzare film e l'Italia lo accoglie sempre ben volentieri. Sì, assolutamente. Penso anche che sia dovuto al successo delle varie opere passate, e noi abbiamo avuto la fortuna, ma anche il merito, di portare, quando era ormai 2 anni fa, Poesia senza fine nei cinema, che ha riscosso questo enorme successo di un autore che magari era passato un po' in sordina. Quindi al momento direi che è un autore che viene amato, adorato, e ha una sua nicchia, un suo pubblico che lo seguono incessantemente. Infatti anche per noi ci ha già stupito il fatto che una volta pubblicati i vari materiali, quindi la locandina, il trailer, ci fossero condivisioni, mi piace, la gente fosse davvero ansiosa di vedere il film, quindi mi auguro che il riscontro al cinema possa raggiungere, se non superare, quello del film scorso. In quante sale? Al momento siamo in 20-25 sale, pensiamo di aumentare di almeno altre 5-6 sale, dopodiché come prima uscita direi che la chiudiamo e poi procediamo la settimana seguente ad aumentare. Purtroppo noi abbiamo questa strategia che non si basa sulla quantità iniziale delle sale, ma su un prospetto a lungo raggio, quindi ha una distribuzione che può durare anche 6-7-8 mesi, però vogliamo raggiungere quante più possibile città. All'estero che titolo ha e poi se ha avuto anche un suo percorso a livello mondiale? Allora, devo dire che con l'estero, il titolo originale in francese, siamo, non dico costretti perché è una brutta parola, però diciamo che abbiamo voluto fare una distribuzione capillare in tutta Europa nello stesso momento, quindi se non sbaglio il film è uscito inizialmente proprio un paio di settimane fa in Francia e poi dall'8 ottobre o nei pressi dell'8 ottobre dovrebbe uscire in tutta Europa. Ripeto, abbiamo voluto utilizzare questa strategia, ma giusto per potersi affiancare a tutta Europa e riuscire a portare quest'opera in tutto il mondo. Quindi avrà lo stesso titolo ovunque? Sì, okay. Sì. E poi devo dire che già il maestro sta lavorando a un nuovo progetto con il quale speriamo di riuscire a entrare in produzione nel prossimo anno, quindi nel 2020, per poi portarlo in sala nel 2021. È parte della famosa trilogia. Psicomagia, un'arte per guarire di Alejandro Jodorowsky, al cinema da martedì 8 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film che distribuisce quest'opera. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, buona giornata. Andrea Prandstraller per parlare del suo documentario Vaillant 63, Il coraggio di sopravvivere, al cinema da mercoledì 9 ottobre 2019, abbinato ad un altro lavoro di Nicola Pittarello, Una tragedia italiana. Andrea, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti quelli che ci ascoltano e anche quelli che ci ascoltano. Raccontiamo un po' quest'operazione. Sì, è un'operazione che in occasione del 56esimo anniversario del disastro del Vaillant è riuscita a portare al cinema questi due documentari, mio e quello di Nicola Pittarello, in una quarantina di sale, una cinquantina di sale distribuite in tutta Italia, e quindi ci sarà una serata con questi due documentari abbinati che raccontano il Vaillant. Il tuo lavoro ce lo presenti? Sì, è un lavoro che io ho fatto una decina di anni fa, nato non tanto per raccontare la tragedia e le cause della tragedia, che sono sempre state, insomma, ultimamente molto note, ci sono i libri di Tina Merlin, c'è lo spettacolo di Paolini, eccetera. Quello che ci interessava era raccogliere le emozioni e i ricordi di quelle persone che per varie casualità erano sopravvissute, sono sopravvissute a questa strage, e quindi abbiamo puntato in quella direzione costruendo un film molto semplice, fatto di interviste e materiale di repertorio, che senza pietismi, spero, fa parlare queste persone. Com'era nato il progetto? No, il progetto è nato innanzitutto dalla disponibilità di un materiale di repertorio girato dai Vigili del Fuoco all'epoca, nel 63, che era ancora inedito. Questo ha interessato Sky Storia e quindi siamo partiti per la produzione. Naturalmente prima abbiamo fatto dei lunghi periodi a Longarone, come si usa senza telecamera, come si usa nel documentario, nel film no fiction. Che impressioni ne hai ricavato da questa ricerca? L'impressione è che siamo stati fortunati. Ti spiego in che senso. Nelle grandi tragedie normalmente i sopravvissuti non hanno voglia di ricordare e di parlare. È successo anche per l'Olocausto, per gli internati nei campi di sterminio, che una volta tornati erano restii a ricordare l'orrore che avevano vissuto. Questo è successo anche per il Vaillant e siamo stati fortunati, perché credo che invece siamo arrivati lì a Longarone nel momento giusto, cioè dopo parecchi anni, nel momento in cui questa voglia di parlare invece si è riaffacciata nella mente dei sopravvissuti, e quindi abbiamo trovato quella disponibilità che probabilmente non avremmo trovato prima. Facciamo anche un accenno al lavoro di Nicola, ci lo presenti anche questo? Sì, il lavoro di Nicola invece si occupa più specificatamente delle cause della tragedia e in particolare ricostruisce il processo dell'Aquila, che si tenne all'Aquila, dove tra l'altro i sopravvissuti di Longarone parteciparono sobbarcandosi lunghissime trasferte per seguire le udienze, e che in sostanza si concluse con delle condanne abbastanza miti per quelli che vennero individuati come responsabili della costruzione della diga, perché poi il nocciolo della questione è che la diga non doveva essere costruita in quel punto, perché il monte Toc, che tra l'altro in dialetto veneto e friulano vuol dire pezzo, quindi era un monte che si sapeva era a rischio di una grossa frana. Il processo fu lungo e complesso e, ripeto, si concluse con delle condanne abbastanza miti, soprattutto relativamente al fatto che morirono 2000 persone. E per tutte le informazioni rispetto all'uscita e alle sale, ci lasci dei riferimenti web? C'è un elenco delle sale in cui il film uscirà da qualche parte. E so che a Roma il cinema scelto e comunque che si ospiterà sarà il Savoy. Sicuramente ci sono in quasi tutte le regioni italiane meno un cinema o due cinema che lo programmeranno. Vaillant per non dimenticare, con l'uscita al cinema di due documentari abbinati, Vaillant 63, Il coraggio di sopravvivere di Andrea Pranstraller, e Vaillant, una tragedia italiana di Nicola Pittarello. Andrea, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, un grosso abbraccio a tutti. Con Gian Giacomo De Stefano per parlare del suo documentario Air de Matinée al cinema da mercoledì 9 ottobre 2019. Gian Giacomo, ben trovato. Ciao, ciao, grazie dell'ospitalità, grazie mille. Presentaci questo lavoro. Air de Matinée è un documentario che racconta cosa è successo a New York, al CBGB, che è forse il più importante rock club al mondo, nella seconda metà degli anni Ottanta. Io dico sempre che tutti ricordano i CBGB per Blondie, Ramones, Talking Heads, ci mancherebbe, però nessuno si rende conto che chi tenne in piedi quel posto negli anni Ottanta furono i ragazzini, perché erano veramente ragazzini della scena hardcore che negli anni Ottanta entrò nell'area del Lower East Side, che poi il CBGB è proprio alle porte del Lower East Side, e specialmente la seconda ondata di questa scena, quella che dopo l'85-86, che farà sì che questi matinè diventino proprio dei grandi contenitori di ragazzi che tutte le domeniche pomeriggio si trovavano lì a vedere 4-5 gruppi che suonavano regolarmente. Per quanto è andato avanti questo periodo? Il mio racconto è incentrato principalmente tra il 1986 e il 90, quando il CBGB in realtà interrompe, c'è una prima interruzione dei matinè, perché c'era troppa violenza ai concerti e quindi viene interrotto. Il matinè, diciamo, del CBGB nascono intorno all'82-83, perché c'era questa scena newyorkese, a core punk, che cresceva e c'era bisogno di un posto, quindi il padrone del CBGB, Billy Crystal, decise di ospitare qualcuno che organizzava concerti di questi gruppi hardcore, e divennero una sorta di istituzione. Ci fu un piccolo calo verso l'85 di questa scena, perché molti gruppi storici della scena newyorkese andarono verso il metal per cercare di avere un riscontro maggiore a livello di pubblico. Era un'epoca in cui il metal era proprio una musica per grandi audience, e diciamo dopo questo piccolo calo ci fu questo boom, l'epoca d'oro del CBG, per cui l'epoca d'oro dei matinè, per cui avevi 300-400 persone dentro e 600 fuori che non potevano entrare, perché ovviamente il posto era davvero piccolo e angusto. Ci sono passate, immagino, centinaia di band. Sì. Devo dire, da fuori molte, però la caratteristica della scena newyorkese era quella di essere il pelino autoreferenziale, con i limiti e le grandezze, da un lato musicale, perché comunque una serie di gruppi incredibili, anche meno conosciuti, magari gruppi che non avevano solo dei demo, potentissimi e interessantissimi, dall'altra parte un'autoreferenzialità che faceva sì che questa scena fosse leggermente chiusa a quello che veniva da fuori. Però i gruppi che ci sono passati sono stati tantissimi, anche i gruppi italiani hanno suonato nell'ultimo periodo dei matinee hardcore, vengono in mente Negazione, che suonarono a CBGB, credo nel 90, nel 91, però era già un'epoca in cui questa scena era andata a calare. Esistono incisioni di tutta questa fase? Sì, beh, ci sono alcuni dischi prettamente dedicati alla scena hardcore, che sono il Live Diagnostic Front, che è uno dei gruppi storici della scena hardcore newyorkese, che viene prima, che proprio sono live al CBGB del 1988, oppure ci sono delle raccolte per un'etichetta che si chiamava Hooker, che era una sussidiaria di un'etichetta metal che raccoglievano alcuni di questi concerti, e io lì li ho conosciuti, perché ho visto queste, io ascoltavo hardcore quando ero ragazzino, ma anche metal più estremo, e arrivavano gli echi di questa scena, di queste immagini anche molto violente, e io da allora ho cominciato a alzare le antenne, a dire che cos'è questa roba. Il primo gruppo hardcore newyorkese poi è venuto in realtà tardi, che furono gli Youth of Today, che vennero in Italia, però questa scena stava già avendo un declino, però in Italia, in Europa, solo allora abbiamo potuto toccare con mano che cosa erano questi gruppi. Hai fatto anche un'analisi di questi episodi di violenza? Sì, nel senso che, allora, in realtà tutto il film non è un film dedicato a chi ascolta musica hardcore punk, anzi, è un film dove secondo me si racconta New York e come New York sia cambiata oggi e come non sia più possibile avere un qualcosa come il mattine hardcore, ma anche altre forme dal basso, perché semplicemente è una città, nel bene o nel male, che è completamente mutata. Oggi è la città, come per usare le parole di una persona che ho intervistato, di Sex and the City. Sex and the City può produrre cose interessanti in certi ambiti, ma sicuramente non fa crescere dal basso dei movimenti artistici o musicali. La violenza è stata una componente di quella scena, è stata una componente perché è sempre stata latente. Poi nell'ultima parte, nell'ultimo periodo dei matinee, a partire dall'88, esplosa. Ci sono sempre stati casi di violenza, però a un certo punto c'erano risse, pestaggi quasi ad ogni concerto. Chiaramente dipendeva dal tipo di gruppo che suonava, più il gruppo era, tra virgolette, macho, era aggressivo, più era possibile che ci fosse questa violenza, che però non è, molti hanno detto, nasce da altri fattori, nasce da, per esempio, l'influenza della cultura hip hop sulla scena hardcore punk nella fine degli anni 80, che porta un'altra mentalità. In realtà, si analizza, è vero, il punk, nel punk tu puoi suonare, non è che se tu suoni male sei considerato male. In altri ambiti musicali, come nell'hip hop, ad esempio, la concorrenza tra due persone che rappano è già parte della poetica, quindi porta altre, è uguale per il mondo dei graffiti, portano altre modalità di pensiero, che entrando in una situazione come quella di ragazzini, in un contesto metropolitano già molto violento, ha creato anche situazioni estreme. Ci fu un morto, però noi non ne parliamo. Come è strutturato il documentario? Il documentario inizia con una parte ambientata in Europa, perché proprio il protagonista, che si chiama Walter Streisand, che era il chitarrista dei Gorilla Biscuits, che è uno dei gruppi più importanti della scena hardcore newyorkese, fa un attimo, mi interessava far vedere quanto la loro scena avesse comunque cambiato quella europea, quindi passiamo da lì, poi partiamo un racconto su quelle che sono le origini dell'hardcore di New York, per far capire un po' anche i punti di riferimento di questo Walter, che comunque era un ragazzino all'inizio degli anni 80 e che, diciamo, perde la prima ondata di gruppi hardcore, però a un certo punto andiamo a spiegare che cosa sono i matinee, come si svolgono, chi furono i personaggi che animarono le serate di matinee, le serate pomeriggi del matinee, come funzionavano, l'età media, che era un'età, 15 anni, sotto non si poteva entrare, e ovviamente c'erano racconti di persone che si facevano i documenti falsi per entrare. È un mondo particolare, un mondo, io penso che sia interessante anche un racconto sulla gioventù, sulla capacità di quando si è ragazzini, di crearsi un proprio universo e di essere incisivi, di creare anche qualcosa di profondo. Io ho molta, penso che la gioventù in quanto tale sia sempre un motore fortissimo per creare qualcosa. Ecco, io ho 46 anni, difficilmente penso di avere un approccio rivoluzionario alle cose, magari sono concreto, però a 15 ero sicuramente più sognatore. Se ti metti assieme 50 ragazzini che vogliono fare una stessa cosa, stai sicuro che qualcosa nasce. Gian Giacomo, che tipo di distribuzione avete pensato e in quante sale? Allora, io non ho i dati esatti. Noi siamo usciti già in una serie di festival, il documentario è stato presentato in anteprima a Biografi, a Bologna, dove ha vinto il premio del pubblico come miglior documentario in ambito musicale. Noi adesso saremo nelle principali città, a partire da Torino, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Perugia, Matera, Roma, Genova. Sono le prime che mi vengono in mente, però io, perché non ho il calendario, e c'è quindi una distribuzione fatta dalla Sara Distribuzione, poi successivamente sarà possibile vederlo anche su Sky Art in televisione. Questo riguarda l'ambito, chiamiamolo, prettamente italiano. Poi ovviamente stiamo lavorando a una distribuzione sull'estero, perché il film in realtà è un film pensato principalmente per un pubblico estero. È positivo che in Italia, forse anche l'eco del CGV aiuta, abbiamo avuto bellissimi riscontri, bellissime recensioni e devo essere onesto, una visibilità molto superiore a quella che mi aspettavo per un documentario che racconta una storia fondamentalmente newyorkese. Per tutte le informazioni ci lasci dei riferimenti web? Una pagina Facebook della Sarah Pictures, che è proprio la pagina di At The Matinee Doc su Facebook, e su Instagram c'è la pagina sempre At The Matinee Doc, dove ci sono, diciamo, la maggior parte delle info relative a questo documentario. Lo ripeto, noi usciremo, il 9, l'anteprima sarà a Ferrara, ecco, vi ricordavo la prima proiezione, appunto, insomma, noi con queste due pagine daremo informazione su quelle che sono i movimenti del nostro film. Il documentario At The Matinee al cinema da mercoledì 9 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Gian Giacomo De Stefano. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, grazie a te, grazie, un saluto. Con Italo Spinelli, direttore della 20ª edizione dell'Asiatica Film Festival, incontri con il cinema asiatico, al Cinema Nuovo Sacher a Roma e al WeGill dal 1 al 10 ottobre 2019. Italo, ben trovato. Salve, buongiorno. Per chi non conoscesse Asiatica, raccontiamolo un po'. Dunque, Asiatica nasce 20 anni fa a Roma con l'intento di portare così visioni diverse, un cinema che proviene dall'Asia. Abbiamo così investito su un cinema anche di nuovi talenti, di cinematografia indipendente. Nel 2000 non esisteva nulla di tutto ciò a Roma, era così l'idea di dare un'opportunità di conoscere il mondo asiatico attraverso il cinema, ma non solo il cinema, ma anche con incontri di aspetto geopolitico, letterario. Così era una visione non eurocentrica e non omologata, e sono passati 20 anni. Abbiamo portato circa oltre 500 ospiti in 20 anni, non so il numero sconfinato di spettatori, centinaia di film con i loro autori, i protagonisti. Abbiamo avuto incontri con premi Nobel, presentazioni di libri importanti, insomma è stata una lunga carriera. Quest'anno in due spazi molto vicini, come si articolerà questa edizione? Io volevo aggiungere una cosa sui 20 anni, che purtroppo sì. Questo è il primo anno senza Bernardo Bertolucci, che è stato un nostro sostenitore, spettatore attento, quando poi non poteva venire al cinema, voleva vedere tutti i film, l'ha sempre seguito, sostenuto, quindi è dedicata a lui questa 20ª edizione, che aprirà infatti con un documentario pressoché inedito, anche se degli anni 80, su Bernardo, una magnifica excursus nel suo lavoro tra Pechino, Parma, Parigi, e poi quello che lui ci aveva regalato nel 2001, cioè la seconda edizione, al Palazzo delle Esposizioni, dove venne a incontrare i giovani registi cinesi, che era Videocartolina dalla Cina. Un corto di 8 minuti sui suoi sopralluoghi prima dell'ultimo imperatore. Ecco, questo è l'opening. Abbiamo il sipario con Bernardo, che non c'è più per prima, in questa 20ª edizione. Mm-hmm. Poi, dopo di che si articola appunto, come dicevi, tra Guigil e il nuovo Sacher. A Guigil sono soprattutto incontri anche con personalità come Enrico Letta, presidente della Italia ASEAN. ASEAN sono i paesi del sud-est asiatico, e quindi avremo una sorta di focus su questi paesi del sud-est asiatico. Sono 10 paesi che vanno appunto al sud-est asiatico, dalla Birmania fino all'Indonesia, al Vietnam, insomma tutti i paesi del sud-est asiatico, le Filippine, su cui c'è una particolare attenzione, così come saranno presenti film sempre dalla Cina, dall'India, dal Tibet, dall'Iran, naturalmente ci sono film, una selezione di cui sono personalmente molto soddisfatto, nel senso che è veramente quest'anno di altissima qualità e di fortissimo impatto, e quindi cioè, l'apertura è con un film turco, Noah Land, di un giovane regista premiato al Tribeca, il suo debutto, è un film straordinario, e dopodiché proseguiamo appunto con Virani, cioè se c'è una, come si dice, una linea rossa o quegli aspetti lì, diciamo che c'è una attenzione particolare un po' alla religione e alla società civile. Ci sono molti film che hanno a che fare anche con l'Islam e le società civili, ma anche con l'induismo e la società civile, il buddismo anche. È anche un documentario molto forte, politico, sempre dall'India, che si chiama Reason, che sarà a Guigil, che analizza, denuncia così senza compromessi una sorta di smantellamento violento che c'è stato dei principi secolari della più grande democrazia del mondo. E ci sono film ancora su fede e religione dalla remota regione del Sichuan, Cina, c'è una storia molto commovente di un pellegrinaggio a Lhasa, ci sono dei film molto anche al femminile, con protagoniste femminili e registe femminili come Nakhon Sawan, che viene dalla Thailandia, ed è un viaggio di qualcuno che accompagna per l'ultimo viaggio la madre lungo questo fiume dove si pensa che sarà poi così il passaggio al paradiso. Ci sono due film ancora al femminile molto forti dalla Cina, uno è Mei Li di Zhu Zhu, molto forte, drammatico, ma molto una storia di ribellione femminile, e un film che è Nina Wu di Midi Zi, che è sempre stato ospite ad Asiatica fin dai suoi primi film, che quest'ultimo film Nina Wu era in competizione a Cannes. Nel complesso quante opere da quanti paesi? Dunque, abbiamo 18 paesi e 32 film. Saranno previsti anche ospiti? Assolutamente sì, cioè tutti i film in competizione sono accompagnati, anche quelli non in competizione, come il film di Ashoka Andagama dallo Sri Lanka. Poi tutti i film in competizione sono accompagnati dal loro regista. Volevo segnalarti ancora 3 film documentari veramente straordinari e molto importanti, io credo. Uno è sulla nascita del movimento degli ombrelli di Hong Kong di James Leung, ed è un diario, infatti dal titolo Umbrella Diaries, che racconta tutto il movimento dall'inizio, che è veramente eccezionale, dà una comprensione totale e profonda di quel movimento. Poi c'è questo film che abbiamo ottenuto, ed è veramente il closing film, The Rest, dell'artista Ai Weiwei, che è film a storia di rifugiati con una partecipazione intima, un po' specchio critico della politica europea sull'immigrazione. Quindi dico, ci sono documentari molto interessanti,